sì, io una villetta, una villetta singola che è praticamente la fine di Via Ciccola, che attraverso Via Torrescià, che prosegue per Via Ciccola, che prima di lui abitava Parodi, lì più avanti abitava lui, però lui all'angolo con Via Principe di Piemonte, mentre Parodi era all'angolo con via Torrescià. Chi? Andrea Parodi? Sì, Andrea abitava lì, Via Ciccola, angolo Via Torrescià, mentre lui invece era più avanti, Via Ciccola, angolo Via Principe di Piemonte. Il barbiere è quello biondo, lo conosci, quello che sta in Via Torrescià. Quello è morto, Giovanni Abbappetta. Sì. È morto Giovanni. Ah, vero. Sì, è morto, forse hanno già fatto il trigesimo. E di che cosa è morto? Non lo so, me l'ha detto mio fratello, il barbiere di mio fratello. Anche io ci andavo, stavo sempre cantando, si inventava le parole delle canzoni in base a Bururri lì. Quando tagliava i campi li stava sempre fischiettando e cantando. Sì, come Giacomino, solamente Giacomino vuoi bere di cosa, di Matteo Angelo. Sì. E lì sono stati sempre cantando i romanzi. È morto Giovanni Soggiù, noto la pappetta. Sì, la pappetta che si faceva biondo. C'era sempre i capelli da ghiri. E lui mi aveva detto che era amico di Andrea Parodi, che ce l'avano insieme e tutto quanto. Può essere, perché lui frequentava molto, le piaceva molto Andrea come cantava, capito? Sì, dice l'ultima volta che è andato lì a Porto Torres, era sfinito proprio, poveraccio, è andato a casa sua. Sì, beh, l'ultimo. Il saluto più toccante Andrea l'ha fatto al porto, alla festa grande. È salito sul palco e ha fatto proprio il saluto definitivo al Porto Torres. Una settimana dopo, 10 giorni dopo è morto. Sì, io c'ero anch'io sotto il palco. C'aveva una borsa attaccata dell'ossigeno, mi pare. Sì, aveva una bomba all'ossigeno presso, non lo detto. Quella è l'ultima volta che Andrea proprio l'ha detto chiaro e tondo, che l'ultimo saluto che faceva proprio le facce del giambo di gente piangendo. Non ricordo come oggi, non so, è stato un saluto molto toccante, un addio, perché lui lo sapeva, evidentemente l'avevano già avvisato, quindi è così. È un cantante che in azienda non ce l'hanno più fatta a trovarne uno così. C'aveva quella voce melodiosa che una cosa strana, la sentivi nell'aria quando cantava, una cosa, una voce indescrivibile. Poi le scriveva le canzoni, le scriveva, le traduceva, soprattutto le canzoni che hanno iniziato, quelle le ha scritte tutte lui. Era amico di Marco, di mio cognato, di Marco Massa. E praticamente mi ha detto che era un bel bravo facendo pesca subacquea. Bravissimo pescatore, bravissimo, insegnava nautica matematica. Non lo sapevo. Vabbè, io lo trovavo sempre al Bar Cristallo, c'aveva una macchina che si aprivano gli sportelli tipo ali, capito? Si alzava, quando scendeva si alzavano gli sportelli e lui scendeva. Sì, c'è una macchina particolare. Sì. Andrea insegnava nautica matematica, c'aveva terza, quarta e quinta capitani, non ricordo come oggi, sezione A. Ma questo non lo sapevo, vedi. Però lo trovavo lì a Bar Cristallo molto spesso, capito? Una volta l'ho trovato al comune, lì stava, si è parcheggiato proprio di fronte al comune e aveva proprio questa macchina che la macchina di Batman. Era una macchina particolare, non mi ricordo che tipo era, ma era una macchina molto particolare, grande. Andrea Parodi penso che ce ne siano pochi cantautori come lui, bravissimo, anche lì non si sa da che cosa, ma ha preso questa malattia ai polmoni. No, c'aveva il tumore, c'aveva. Io avevo il tumore, era stato operato, poi chemio, tutto, sembrava che poi ha preso una ricaduta di quelle brutte, non c'era più niente da fare. Oh, yeah. È una cosa, a me, guarda, quando io lo sento cantare mi commuovo ogni volta che lo sento mi commuovo, mi è sempre piaciuto come cantante. E io per la musica vado matto, mi ha sempre colpito anche il modo di cantare che aveva, era soave, proprio una cosa, una voce che si disperdeva nell'aria, non so come spiegartelo. Ma tutti lo così. Tutti lo ricordano in quella maniera. Se tu stai attento alla Radio del Golfo, tutti i santi giorni, quando c'è Luciano Di Fraia, dalle 11 a mezzogiorno, no, dalle 11 a luna forse, mi pare, tutti i santi giorni le dedica lo spazio, e lo dice, mette due, tre canzoni, sempre di Andrea Parodi, tutti i santi giorni. Io ascolto tantissimo la Radio del Golfo, tutti i santi giorni c'è lo spazio dedicato ad Andrea, e Luciano lo dice sempre. Luciano Di Fraia, una volta stavo ballando con questa tipa al Parsifal e lui faceva il DJ, che se non mi ha puntato i fari sopra, ed ecco a voi la coppia vincitrice, dai che ce la fai, che se l'ha fatto un cazzo boh, non aveva fatto diventare tutto lui. Ehi, stato sempre mai troppo, non ho mai fatto nulla in vita giovane, tutto in Gennarino, cazzo, una via la faccia in terra, una via, tutti sistemati, i figli, le figlie, tutti, è stato sempre un disgraziato, fatto sempre i segorsi, sempre, dove piaceva fare lo speaker, in radio, questi eventi così in strada, queste cose, nelle discoteche, lui sempre queste cose ha fatto. E che poi non è che faceva programmi molto familiari, non è che era professionista, era molto, i programmi che faceva, alta fedeltà, una cosa del genere, può essere. Sì, un sacco di cose, al Mandingo faceva il disc jockey, l'ho trovato ad Alghero una volta al Mampea, ma ti parlo di tanti anni fa, poi vabbè, ha fatto il Radio del Golfo, il suo spazio che aveva, ma in tutti gli eventi, l'ho trovato a Fertilia, alla festa di San Marco, a Porto Torres, che poi ci hanno giocato il posto con Luigi Fiori, insomma, ed è sempre stato in mezzo a queste cose. Vabbè, deve essere, gli piace, vabbè, anche quello lì è un lavoro, se lo fai ripetutamente sempre è un lavoro anche quello. Sì, però non è che le è mai piaciuto andare a zappare o a fare, capito? Quello è stato sempre il suo lavoro, sempre, però ti ripeto, quando era vivo il padre, ribudia la vita, perché voleva che lui si sistemasse diversamente, capito? E quando c'è lo scoglio lungo non ve la sempreiedo, da quando ha iniziato lo scoglio lungo con i fratelli Pirino, la Binnetta, da quando poi, insomma, tutti quelli hanno preso, c'era sempre lui di schigiochi, capito? Lui, Carlo Polo, quell'altro di Sorso, un sacco di gente, ma lui era sempre lì. Io conoscevo bene i genitori, adesso non so se esistono più, ma signor Gennarino, la moglie, li conoscevo bene. Qui a Balai 56, mi ricordo anche il numero. E c'aveva la pescheria in piazza, non ti ricordi, di fronte a quello dei gelati? Sì, già me lo ricordo, sì. Dietro a quello che fa le pizze di quella via lì. Dovrebbe essere corso Vittorio Emanuele ancora quella lì. Sì, quel pezzo lì sì, via Sassia inizia là sopra. Sì, corso Vittorio Emanuele. Beh, l'ingozzo di Gennaro Di Fraia, l'ingozzo di Gennaro Di Fraia, venuto da là. Già era in gamba, dai, anche la madre era in gamba, mi dava sempre la mancia, dico la verità. Sì, ma no, c'erano poche pescherie, quindi erano i tempi d'oro un po' per tutti, però ti ripeto, dove è stato sempre poco, le piaceva andare a fare altre cose, le piaceva fare quel lavoro lì, e se l'ha portato avanti, ancora oggi lo fa con dignità, con molta professionalità e per carità, però non è che ha fatto altro. Sì, no, ma già si arrangia a farlo, dai. Mette allegria perché fa programmi tipo familiari proprio, dai, a livello di caserici. Ah, sì. Lui fa musica anni 60, anni 70, 80, la mattina tiene in compagnia i vecchietti, poi ha questo modo di parlare che saluta tutti quelli che sono all'ospedale, quelli che non possono, capito? Ha un modo di fare suo particolare che è abbastanza apprezzato, per carità. Beh, è una vita che lo fa quel lavoro lì. Prima era sposato con una mia collega. Io lo so, poi si era messo un po' nei casini, quando vabbè, qua non lo dico, ma si era messo un po' nei casini, poi insomma è successo un po' di patatrac. Comunque già va bene, bravo ragazzo, più grande di noi, mi pare sia il 57. Più o meno, non è assai, no? No, mi pare che i 2 anni, il 57 forse. E adesso c'è per Radio del Golfo, fa quel programma Alta Fedeltà. Sì, già lo so, lo ascolto. La mattina, sempre la radio accesa su Radio del Golfo. Cazzo, ma io con Romani, della giurita, devo andare, ma qua veramente c'è una stanchezza addosso allucinante. Beh, ti lascio, ti auguro buon proseguo, buona cena, buon tutto, sono già le 8 meno 20 quasi. Vado a mettervi le scarpe, mi preparo, usciamo, se no mi viene un giorno, non vado più a lucco. Ciao già, grazie delle chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in agguato, bye. E dai, già ti svegli adesso, dai, quando vai già stai in compagnia, già non ti drommi. Una data di ralassa. Ciao. No, una data di ralassa, allora, no. Quando viaggio io non si ciuccia, fino a quando si dentro Sassari va bene, però devi stare attento anche dentro Sassari. Adesso basta, adesso acqua, gazzata, che fa fare il ruttino. No, io gazzata non ne bevo, perché sennò volo pure. No, basta così, per cui ci abbiamo già dato. Abbiamo mangiato, bevuto, lavorato, basta. Adesso ci rilassiamo un po' in compagnia, due chiacchiere. E via, c'è anche Marcella Tassero, già la conosci, Marcella Ruganotto. Può darsi, non lo so. Ah, Marcella Grieco, la conosci? Chi? Marcella Grieco, la sorella di Marco, quello che c'è al negozio a Lungomare. Sì. Sono anche qui, con marito, siamo una bella greffetta. Vabbè, è stato per cambiare, scambiate quattro chiacchiere, due risate e ci passa la serata. Io non posso uscire qua, non posso camminare, se ne accade un mio pereggere. Che palle, mamma mia, insomma, ti ha preso male questa cosa. Abbi un po' di pazienza che tu, vedrai, già si mette tutto a posto, va. Va bene, di nuovo, ciao Tino, ciao Gianni, ciao a tutti, bye bye. Ciao. Avanti Natalici, sì. Ciao Tino. Completamente in Halloween Radio. Tino, resti? Guarda, aspetta Tino, non so neanche sta andando bene questa qua, aspetta. Sì che sta andando bene, certo l'avrei detto. Perché era basso di vatto. Sto collegando la radio già, sono impegnato con i cavi, sono anche lì, sai. Vabbè, dai, allora io chiuso e vado a farla mangiare a Tyson, là. Così poi quando sale con Elena ce l'ha già pronto, là. Ci sentiamo Tino, dai, stammi bene, saluto a tutti gli ascoltoni e ciao a tutti, ciao. Va bene, ciao.